Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I virus non hanno frontiere di nessuna natura e quindi c'è bisogno, non conoscono frontiere, non si fermano di fronte a frontiere costruite dall'uomo sul piano amministrativo e quindi c'è bisogno di un grande coordinamento di natura internazionale. Coordinamento di natura internazionale, certo è necessario, come ha detto il ministro della Salute Speranza, però pare che sia a livello mondiale ma anche a livello europeo, insomma, tutto questo coordinamento non sembra ci sia stato al momento, e poi ci sono accuse reciproche, veti, muri, e poi si scopre anche per esempio per quanto riguarda la Francia che anche la Francia teme dentro il proprio territorio un'altra Codogno, diciamo così. E quindi ovviamente anche oggi gran parte di questa puntata di Effetto Notte è dedicata agli sviluppi legati al coronavirus. Ne parliamo anche a proposito della conferenza stampa annunciata dal presidente americano Trump per quanto riguarda la situazione negli Stati Uniti, che da una parte sembra, ieri c'era stato un allarme di una possibile ondata di epidemia anche appunto in America, e oggi Trump in questa conferenza stampa sembra che voglia tranquillizzare. Insomma, poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, cercheremo anche di trovare il tempo di occuparci anche di altri argomenti. Oggi per esempio è iniziato il processo, la prima udienza per l'omicidio del vice brigadiere, vi ricordate, a Roma, Mario Marcello Rega. E poi anche c'è la partita di Champions League maschile della Juventus a Lione. Anche lì sembrava che non si potesse fare, che si facesse a porte chiuse sempre per il coronavirus, invece praticamente sono scesi in campo le squadre, si sta giocando normalmente, ci aggiorneremo. Allora, vi ricordo, prima di partire, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, per le vostre interazioni, i vostri commenti, oppure riflessioni e osservazioni li potete inviare tramite SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Durante il giorno, per alcune anticipazioni, se volete, c'è Roby come Twitter, Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, e durante la diretta c'è direttamente il Twitter di Effetto Notte. Direi di partire, allacciate le cinture. L'epidemia di coronavirus, i contagiati in Italia sono 400, le vittime 12, ma tutte con patologie pregresse. La svolta del governo, tamponi solo a chi ha i sintomi, guarita la coppia cinese dello Spallanzani. Anche Parigi ora teme il virus, spunta la Codogno francese, a Napoli intanto il vertice Conte-Macron. L'impatto del coronavirus sull'economia ha preoccupato il mondo produttivo. Bruxelles apre una maggiore flessibilità per l'Italia. Per le zone rosse arriva un'altra agevolazione, stop alle cartelle esattoriali. Cina, trend positivo nel controllo dell'epidemia. Intanto una nave da crociera italiana è stata respinta da due porti nei Caraibi. La politica italiana, Conte abbassa i toni, dice l'ora dell'unità, ma Renzi e Salvini attaccano. Niente inciuci, dice il leader della Lega, troppi errori di comunicazione, secondo Renzi. Lavoro, secondo i dati Istat, per le donne è sempre più precario e part-time e hanno un reddito del 25% inferiore a quello degli uomini. L'omicidio del carabiniere Cercello a Roma, ora oggi è iniziato il processo ai due studenti americani accusati del delitto. Calcio in campo a Lione per la Champions League maschile, la Juventus, nessun problema per i tifosi bianconeri in trasferta in Francia. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus. Naturalmente al sesto giorno dal primo italiano positivo cambia la strategia di rilevazione, avendo attribuito l'anomalia dell'Italia terza al mondo per positivi al Covid-19 dopo Cina e Corea del Sud alla grande quantità di tamponi fatti, quindi avendo attribuito a questa cosa il fatto che ci siano tanti casi in Italia, cambia la strategia perché appunto 10.000 ne abbiamo fatti contro meno di 1.000 di Francia e Germania. Allora i tamponi da ora in poi in Italia saranno somministrati solo a chi mostra dei chiari sintomi. Intanto oggi si registra la 12ª vittima, la prima in Emilia-Romagna, che però, come i morti italiani precedenti, soffriva di patologie pregresse. E i contagiati toccano ora quota 423 nel nostro paese. Le Marche sono la 10ª regione coinvolta. Non sono stati individuati al momento nuovi focolai. 8 i minori con Covid-19, 7 in Lombardia e 1 in Veneto, ma per fortuna i bambini sono colpiti in modo molto lieve. Ma ci sono anche notizie positive, come la guarigione dei primi casi di malattia accertati in Italia, cioè la coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani. Dopo il marito è risultata negativa anche la moglie, mentre a Piacenza una mamma positiva positiva al virus, ha partorito un bimbo sano. Intanto la Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla diffusione della malattia e i carabinieri del NAS hanno ispezionato gli ospedali di Codogno, Casal Pusterlengo e Lodi, e poi ne parleremo naturalmente di questa inchiesta. L'OMS intanto esprime piena fiducia nell'azione dell'Italia. Per quanto riguarda la Cina, c'è un trend positivo su prevenzione e controllo dell'epidemia del coronavirus, mentre l'economia sta accelerando la ripresa, l'ha detto il presidente cinese, anche se dice che comunque la situazione nell'Hubei e nel suo capoluogo Wuhan resta complessa e difficile. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, vi dicevo, il presidente Trump ha annunciato una conferenza stampa, poi ci collegheremo direttamente con il nostro corrispondente. Per tornare all'Italia, sulla chiusura delle scuole, intanto è sfida aperta tra la Regione Marche e il governo, deciso a impugnare il provvedimento in cui il presidente Ceriscioli ha disposto la chiusura fino al 4 marzo, nonostante nella regione non ci siano casi accertati, e di questa cosa abbiamo parlato ieri qui a Fettonotte proprio con la vice ministra all'istruzione Anna Scani. Il presidente delle Marche ha detto: non torno sui miei passi per le sospensioni nelle zone a rischio. Intanto arrivano le indicazioni della ministra dell'istruzione Azzolina, intervenuta a Radio 24. Gli studenti non perderanno l'anno. Non lascia margini al dubbio la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Ai nostri microfoni esclude che la chiusura delle scuole nelle aree a rischio possa compromettere l'anno scolastico. Sappiamo che il testo unico, l'articolo 74,3, ci parla dei 200 giorni, ma se ci sono situazioni imprevedibili, l'anno è salvo. Le scuole potrebbero anche prevedere in autonomia di allungare l'anno, ma non sarà necessario, aggiunge, perché è stata attivata una task force per la didattica a distanza. Le scuole che sono già avanzate, le piattaforme all'interno di esse stesse ce l'hanno, andranno tranquillamente. Per quelle scuole invece che non hanno la piattaforma, la creiamo noi. Nessuna trattenuta sullo stipendio per gli insegnanti a casa, non per malattia ma per causa di forza maggiore, assicura ancora la ministra, e i soldi versati dalle famiglie per le gite saltate verranno rimborsati, con una speranza che dalla prossima settimana restino chiuse su base provinciale solo le scuole legate alle zone focolaio e che dal 16 marzo i viaggi di istruzione possano riprendere. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il contagio rimane significativamente circoscritto. La nostra risposta all'emergenza è stata tempestiva e trasparente. Questo lo dice il ministro degli affari europei, il nostro Vincenzo Amendola. Dice: preoccupante la proliferazione di notizie inaccurate e allarmistiche sul nostro paese. L'idea, dice Amendola, che si possa vietare a un cittadino italiano di entrare in un altro paese non sta né in cielo né in terra, e tra i 27 questo è chiaro. Nessun nuovo contagio è stato segnalato nelle ultime 24 ore in 26 regioni di livello provinciale della Cina continentale. Lo hanno reso noto le autorità cinesi, le quali ora mettono in quarantena per 14 giorni gli italiani che arrivano nel paese. Un provvedimento comunicato da Pechino senza citare l'Italia, ma parlando di paesi colpiti dal coronavirus. In Europa restrizioni, ma nessun blocco. La Germania fa sapere che non intende sconsigliare i viaggi nel nord Italia. Lo si fa quando sussiste un pericolo di vita e non è questo il caso, sottolinea il ministro degli esteri tedesco. Nessun blocco di voli da e per l'Italia, neanche da parte di Londra. Sarebbe una misura controproducente, comunica il ministro della salute inglese Matt Hancock, limitandosi a confermare le indicazioni sull'autoisolamento per chi arriva nel Regno dal nord Italia e il consiglio di evitare viaggi negli 11 comuni in lockdown. La Francia, dopo la sua prima vittima a Parigi di coronavirus e 17 casi confermati, si prepara ad affrontare un aumento dei contagi, ma da Parigi fonti diplomatiche confermano il summit Italia-Francia in programma a Napoli. L'attenzione tuttavia resta alta. La Francia, insieme a Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Russia e Croazia, sconsiglia ai cittadini di compiere viaggi in Italia, specie nel nord. Washington invece ha modificato le avvertenze per i cittadini americani che viaggiano all'estero, mettendo l'Italia a livello 2 in una scala di 4, vale a dire si può viaggiare nel nostro paese aumentando però le precauzioni. Il tutto mentre Tokyo conferma i giochi olimpici dopo che si erano diffuse notizie di un rinvio a causa del coronavirus. Ad essere posticipate, ha sottolineato il premier giapponese Shinzo Abe, saranno solo i grandi eventi legati alle Olimpiadi previsti nelle prossime 2 settimane. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre relativamente al coronavirus, passiamo all'impatto economico. I mercati finanziari oggi sono stati più tranquilli, con gli europei prima e poi Wall Street in terreno positivo. Sul fronte interno italiano però restano le preoccupazioni del mondo produttivo. Dal governo arrivano ulteriori risposte. Allo studio. Il governo è al lavoro per salvaguardare imprese e PMI che rappresentano l'ossatura commerciale del paese. A rassicurare il mondo produttivo è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che annuncia di avere in agenda una riunione martedì prossimo per fare il punto su export e made in Italy. In arrivo, puntualizza, ci sono 350 milioni per il fondo export di Sace Simest e altri 300 già pronti con l'Istituto del Commercio Estero. Al Ministero dell'Economia intanto si lavora il decreto economico per le zone rosse, che potrebbe approdare venerdì in Consiglio dei Ministri. Fra le misure allo studio ci sono la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, il completamento della sospensione della rottamazione delle cartelle, blocco dei pagamenti di mutui e bollette e misure a sostegno degli intermediari che lavorano nelle zone blindate, misure attese dalle aziende. Siamo in emergenza economica, dice il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi. Serve più sostegno perché, spiega, fermare la Lombardia significa frenare oltre un quinto del PIL e dare un duro colpo a tutta la filiera dell'industria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo è arrivato il via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sull'emergenza coronavirus. Il testo, approvato a Montecitorio con 462 voti a favore e 2 contrari, passa adesso al Senato. Il coronavirus peserà sulla crescita economica dell'Italia, ma difficilmente sul suo rating, cioè sulle previsioni. Lo afferma Moody's, sottolineando che l'epidemia aumenta il rischio di recessione per l'Italia. E il tema è entrato anche nelle relazioni economiche per quanto riguarda il Paese, che la Commissione europea ha reso note oggi. L'Italia ancora nel gruppo dei Stati europei con squilibri macroeconomici eccessivi, ma Bruxelles potrebbe dare all'Italia, proprio per l'emergenza coronavirus, più flessibilità. A questo proposito parliamo di occupazione femminile, precarietà, minore accesso alle figure apicali, crescita del part-time involontario e della sovraistruzione. Sono queste, secondo l'Istat, le caratteristiche del lavoro femminile in Italia. Le donne che lavorano a tempo determinato sono nella media dei primi trimestri 2019 il 17,3% e quelle in part-time sono ormai un terzo, il 32,8% contro l'8,7% degli uomini. Il part-time non è cresciuto come strumento di conciliazione dei tempi di vita, ma nella sua componente involontaria, che ha superato il 60% del totale contro il 34,9% dello stesso periodo del 2007. Tra l'altro, dice sempre l'Istat, nel 2017 i redditi complessivi guadagnati dalle donne sono in media del 25% inferiori a quelli degli uomini. All'estero, Russia. Il presidente Putin ha accolto la proposta di svolgere il 22 aprile in Russia il voto sulla riforma costituzionale, che secondo alcuni analisti potrebbe consentire a Putin di rimanere al potere a tempo indefinito. Lo ha detto il presidente del gruppo di lavoro sugli emendamenti alla Costituzione, Pavel Krashenikov. Di nuovo in Italia con la cronaca, l'omicidio del carabiniere Cercello a Roma luglio scorso. Oggi è iniziato il processo ai due studenti americani accusati del delitto e cercheremo di capire nel corso di questa puntata se si stanno chiarendo i tanti punti oscuri di questa vicenda. Per chiudere lo sport, Maria Masha Sharapova ha detto basta. La tennista russa, nata 32 anni fa nella steppa siberiana, ha dato l'annuncio del suo ritiro dalle competizioni, come si addice a una star dello sport e per la sua passione per la moda e per il glamour. Con una lettera pubblicata da Vanity Fair a Vogue, vincitrice di 5 tornei del Grande Slam, l'ultimo Roland Garros del 2014, è entrata nella storia per essere stata la prima numero uno del ranking mondiale di nazionalità russa, è successo nel 2005, per aver vinto Wimbledon a soli 17 anni, ma anche per la squalifica a causa doping dopo la positività al medonium durante gli Australian Open del 2016, che le costò uno stop di 2 anni, poi ridotti dal TAS a 15 mesi. E restiamo sullo sport, ma con il calcio, con il nostro Dario Ricci, che ci aggiorna sulla partita di Champions League maschile, che si rischiava di non fare o fare a porte chiuse, invece è in corso Lione-Juventus. Caro Dario? Eccoci qua, no, in realtà non è mai stata a rischio né di non essere disputata né di essere a porte chiuse la gara tra c'era Lione la paura Juventus, dei francesi, insomma, in però, dubbio, no? Ecco, sì, era più che altro la paura dei francesi per quanto riguarda la presenza dei tifosi juventini. Poi oggi il ministro della salute francese ha sciolto questo nodo e i tifosi juventini presenti regolarmente nel loro spicchio dello stadio dell'Olympique Lyon. Siamo al 16° di gioco, risultato ancora di 0-0 in questa andata degli ottavi di finale. Il ritorno sarà il 17 marzo a Torino. Juventus che prova a controllare la gara, al quarto minuto una buona occasione per i bianconeri questa sera in completo totalmente blu, il cross di Ronaldo dalla sinistra, il quadrato sul secondo palo non ci arriva davvero per pochi centimetri, 0-0 anche nell'altra gara della serata che chiude insieme a questa questo turno d'andata degli ottavi di finale al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City. Roberta. Grazie da Luigi, a dopo. Grazie. Per gli aggiornamenti. Intanto, prima di invece adesso aggiornare chi sta viaggiando su strade e autostrade, vedo già i vostri messaggi che arrivano tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, che è sempre il numero per SMS e WhatsApp. C'è per esempio Marco che dice, a proposito della svolta del governo che ha deciso di fare i tamponi solo a chi ha dei sintomi piuttosto sospetti, chiede: ma che senso ha diminuire il numero di tamponi, per arretrare in classifica? No, forse anche per, diciamo, intanto diffondere meno panico e poi forse per essere anche più razionali, diciamo. Non è che tutte le persone che si incontrano bisogna infilare questo tampone in gola, nel naso. Ecco, quindi, diciamo, così stanno facendo anche le altre nazioni. Poi è vero che se si fanno troppo allora c'è qualcuno che critica, se si fanno meno c'è comunque qualcuno che critica. Alessio dice: non capisco che danno possa fare il tampone agli asintomatici, casomai una precauzione in più, ma il motivo è proprio questo che vi dicevo, forse adesso si è esagerato nel sottoporre numeri, migliaia di persone a questi tamponi, è meglio farlo con chi appunto mostra di avere dei sintomi chiari. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In tempo record, rieccomi subito a voi dopo la sintesi della giornata, adesso un punto piuttosto ampio, esauriente, articolato della situazione legata al coronavirus. Adesso invece trattiamo dei temi più specifici legati appunto a questa epidemia per quanto riguarda l'Italia e non solo. Per i vostri commenti continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. C'è questo ascoltatore, il primario di Gela, il pronto soccorso, che dice qualcosa, poi leggerò gli altri messaggi. Adesso invece direi di soffermarci su diversi aspetti, che sono quello che riguarda un'inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Lodi, poi ci collegheremo anche con gli Stati Uniti per sapere qual è la situazione appunto in America, e poi ci sarà un vademecum molto utile per capire come comportarsi in vari aspetti, in vari ambiti della vita in questo momento particolare. Se in conseguenza delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che probabilmente non rendendosi conto di quello che diceva additava ipotizzabili falle al sistema sanitario lombardo, ci sono e ci saranno medici e infermieri che sono da giorni senza sosta impegnati per la tutela della salute pubblica, indagati, pare che ci siano stati i NAS stanotte in visita in quegli ospedali, ecco, non scherziamo. Quei medici andrebbero premiati e non certo indagati. Certamente tutti i medici, avete sentito Salvini, tutti i medici, chiaro, infermieri, operatori sanitari, donne e uomini che stanno lavorando alacremente in prima linea in questi giorni per prevenire e curare il contagio da coronavirus, lo stanno facendo ovviamente con grande abnegazione, con grande senso di responsabilità, di sacrificio, però poiché c'è la necessità anche di capire alcune cose sull'inizio di questo focolaio, in particolare in Lombardia, ma non solo, sapete, i due focolai sono in Lombardia e Veneto, è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Lodi e su questo coinvolgo la nostra Raffaella Calandra. Cara Raffaella, ciao. Cara Roberta, eccoci qua. Sì, in realtà le inchieste a questo punto diventano due, perché una è stata aperta dalla Procura di Lodi, un'altra dalla Procura di Padova, ed entrambe però hanno lo stesso obiettivo, andare a verificare, cioè, se le linee guida e i protocolli che erano già in vigore per cercare di contenere il contagio da coronavirus siano stati effettivamente rispettati, sia a Codogno nella gestione del primo contagiato, il famoso paziente numero uno, il 38enne ora ricoverato a Pavia, sia anche nell'ospedale di Schiavonia, quindi nella bassa padovana, dove invece purtroppo c'è stata la prima vittima, Alberto Trevisan. Quindi in sostanza le due procure andranno a vedere, e infatti sono state già acquisite le cartelle cliniche dei due pazienti, andranno a vedere che cosa è stato fatto e soprattutto perché il tampone e l'esame che quindi certifica la presenza o meno del del coronavirus è stato fatto soltanto giorni dopo il ricovero, una circostanza che di sicuro avrebbe in qualche modo ritardato la diagnosi e quindi forse anche favorito il contagio, quello che è stato un po' il tema delle polemiche dei giorni scorsi. Infatti, Raffaella, perché invece dall'azienda sanitaria di Lodi dicono che questo primo paziente, il famoso podista di 38 anni, il primo caso vero in Italia di contagio che è ancora ricoverato, non avrebbe voluto essere ricoverato la prima volta che si è rivolto, no, all'ospedale, e poi nel secondo caso invece sembrava che comunque non avesse sintomi così sospetti, Raffaella? Ma lì il tema era soprattutto uno, oltre a quello che chiaramente adesso verrà ricostruito, il fatto che lui non rientrava, non era di ritorno dalla Cina e non dichiarava di aver avuto rapporti con persone che ritornavano dalle aree a rischio della Cina, e in quel momento pare che le linee guida in qualche modo escludessero l'obbligo di effettuare questo tipo di esami a chi non rientrava in questo tipo di categorie. Solo giorni dopo la moglie, anch'essa poi risultata positiva, si ricordò di una cena che aveva avuto con un manager di ritorno dalla Cina, anche se poi quel presunto paziente zero si è rivelato non essere tale, e questo ha innescato quindi gli esami sul coronavirus. Cioè, queste indagini saranno molto burocratiche, cioè andranno a vedere se in quel momento, nel momento in cui sono stati presi in carico i due pazienti, sono state rispettate le linee guida che gli operatori sanitari avevano rispetto alla gestione e al contenimento del contagio. Quindi diciamo, Raffaella Calandra, che sono comunque delle indagini doverose in questo momento, no? Sicuramente non è semplice, e anche il procuratore di Lodi nel ribadire assolutamente tutta la stima, la vicinanza e anche la gratitudine nei confronti degli operatori sanitari di Codogno, che da giorni sono proprio in prima linea, però lui stesso ha usato proprio la stessa espressione, ecco, doveroso questa indagine davanti alle informazioni concordanti sui ritardi, ha detto, davanti alle parole anche del Presidente del Consiglio, ma soprattutto anche per dare una risposta rispetto a questa esplosione forse in attesa del contagio. Ma c'è anche forse, Robby, un'altra inchiesta che è bene ricordare, che è stata aperta invece a Milano, stavolta per procurato allarme, perché in realtà i magistrati stanno cercando di trovare chi ha diffuso un messaggio vocale in cui si invitava a fare scorte in vista di un imminente isolamento della città di Milano. Un messaggio che quindi ha creato il panico e tutti ad accaparrarsi nel supermercato, che è l'ipotesi di reato. E anche questa è un'inchiesta doverosa. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Ciao. Intanto c'è il ministro della Salute Speranza alla Camera che sta informando, dice tra le varie cose: sono due focolai, per ora in Italia nessuna prova del paziente zero, per l'appunto ancora non si è trovato da dove è partita la persona, dove è partita in Italia l'epidemia. E poi cosa dice? Anche l'isolamento è l'unica strada, l'isolamento che sia di una comunità, come appunto succede in queste zone rosse nell'Odigiano e vicino Padova, e oppure delle persone singole che vengono individuate. Poi ancora detto c'è una relazione stretta tra il governo e il Parlamento per le varie decisioni che vengono prese. Però adesso direi, mentre tra poco parleremo anche della situazione degli Stati Uniti, vi dicevo, ci collegheremo per questa conferenza stampa del presidente americano Trump con il nostro corrispondente, però relativamente a varie questioni pratiche che anche voi ponete, per esempio ieri c'era questa ascoltatrice e ho girato direttamente il suo messaggio alla vice ministra dell'istruzione Ascani, che era qui ospite Effetto Notte. Diceva: io ho un'agenzia di viaggi per quanto riguarda le gite scolastiche che adesso in gran numero vengono annullate, avevamo anticipato i soldi per i treni, per i vari viaggi aerei, per gli hotel eccetera, adesso noi come facciamo con questi soldi fuori che non ci vengono ridati? E oggi lei aveva dato già una risposta a Scani ieri, e oggi in effetti poi in questa riunione del governo si è fatto un po' il punto anche su questi aspetti. Però intanto saluto, proprio per le questioni pratiche da chiarire, offre il servizio Cittadinanza Attiva, allora saluto Isabella Mori, che è responsabile tutela di cittadinanza attiva. Buonasera, Mori. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, voi avete stilato un vademecum che va da dare indicazioni dal rimborso per il biglietto del treno, dell'aereo, se questi viaggi devono essere annullati appunto causa coronavirus, oppure la sospensione della rata del mutuo, che è una misura del governo di cui abbiamo parlato ieri, per chi vive nella zona rossa. Come giustificare un figlio che non è andato a scuola per assenza per il coronavirus? Ci delinea un po' altri elementi di questo vostro vademecum, Mori? Sì, assolutamente. Noi abbiamo stilato questo vademecum da una parte proprio con l'obiettivo di mettere insieme tutta una serie di consigli utili, come sta dicendo lei, in vari ambiti e in vari settori, per far sì che il cittadino in questo momento piuttosto difficile riesca, direttamente dal nostro sito, abbiamo tematizzato gli argomenti, ad avere però appunto una guida dove attingere e trovare informazioni pratiche, come diceva lei, che vanno dal rimborso dei viaggi in treno, in aereo, piuttosto che pacchetti turistici, alle sospensione delle rate del mutuo per le zone rosse, alla giustificazione del proprio figlio in caso di assenza dalla scuola per oltre 5 giorni. Inoltre, l'obiettivo della nostra guida, che mette insieme anche una serie di link a siti ufficiali e testati, a fonti ufficiali, vuole essere in qualche modo anche una risposta proprio all'allarmismo e alle fake news che stanno girando in questi giorni, come diceva poco fa lei. Quindi vogliamo anche dare una sorta di informazioni in più al cittadino. Abbiamo unito, messo a disposizione tutti i numeri verdi delle regioni, il numero del ministero, e poi ci sono proprio una serie di FAQ, risposte, domande utili, che pongono l'accento sia sulle questioni relative proprio alla salute piuttosto che, ripeto, a questioni meramente pratiche. Vedo anche per quanto riguarda per esempio le truffe, le speculazioni legate all'emergenza, che ne abbiamo viste parecchie in questi giorni, no? Dalle mascherine ai presidi, a chi vuole lavare i soldi dal coronavirus, a chi dice di dover fare i tamponi a domicilio e invece vuole semplicemente entrare in contatto con preziosi e derubare le persone. Abbiamo istituito per questo un indirizzo mail dedicato, preghiamo i cittadini di farci pervenire le segnalazioni in modo che poi procederemo a inoltrarle alle autorità competenti. Mori, a questo proposito, per la vostra mail è coronavirus@cittadinanzaattiva.it, no? Sì. È operativa da oggi e stiamo ricevendo già moltissime richieste, non solo per le truffe in realtà, ma proprio richieste, consigli pratiche sui viaggi, sui rimborsi. Quindi insomma siamo contenti perché abbiamo avuto un riscontro positivo del fatto che comunque è utile ai cittadini avere in un unico sito tutte queste informazioni. Invece il sito? L'indirizzo è quello di Cittadinanza Attiva, www.cittadinanzaattiva.it. Benissimo, chiarissimo. Esatto. Quindi ecco, anche questo è un servizio utilissimo in questa situazione così particolare. Grazie Isabella Mori di Cittadinanza Attiva. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Adesso invece ci colleghiamo con il nostro Riccardo Barlam negli Stati Uniti, a New York. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Perché il presidente americano Trump ha annunciato una conferenza stampa sul coronavirus che dovrebbe esserci alla mezzanotte ora italiana. E ha detto, un paio d'ore. Ecco, l'obiettivo, dice, le fake news stanno cercando di far apparire l'epidemia nel peggior modo possibile, creando panico sui mercati. I democratici parlano ma non agiscono. Però nel frattempo, ieri mi pare che, non so se dal Ministero della Sanità o dove, è arrivato un certo allarme. Dall'Agenzia federale, ecco, che si occupa delle malattie infettive, che si chiama CDC, Center for Disease Control. E la direttrice di questa agenzia, Nancy, è una signora molto seria, Nancy Messonnier, ha detto, ha lanciato l'allarme perché ha invitato, si aspetta intanto una diffusione elevata del virus negli Stati Uniti, ha invitato sia le aziende che le scuole che le comunità americane a prepararsi per potenziali focolai. Lei Riccardo, sì. Vedo San Francisco oggi, che è la quarta città più grande degli Stati Uniti, ha già dichiarato lo stato d'emergenza locale per il coronavirus, anche se ancora non ha avuto nessun caso comprovato. Guarda, ieri è tornato un mio amico che è stato a fare la settimana bianca in Italia sulle Dolomiti, beato lui, e mi ha raccontato con la famiglia che è arrivato in Italia, li hanno controllati in tutti i modi all'aeroporto, così. Quando sono partiti non li hanno controllati. Quando sono arrivati ieri qui a JFK, all'aeroporto Kennedy di New York, che uno scalo internazionale lo passa non so quante persone al giorno, è entrato senza nessun problema, anche se arrivava da Milano, diciamo, da un posto dove potenzialmente. Qui la sensazione è che davvero il virus scorri sotto la cenere, al di là dell'ottimismo di Trump, che ovviamente è spiazzato da una epidemia che rischia di diffondersi. Le parole di questa responsabile dell'agenzia federale che si occupa di malattie infettive, appunto, lei ha detto che si aspettano la diffusione di questo coronavirus negli Stati Uniti, il punto è sapere solo quando succederà. Io ieri, esperienza personale, qui a New York non si vedono tante persone con le mascherine, ieri sono stato a fare la spesa in un supermercato qui vicino, proprietà sono dei cinesi, di solito pienissimo di gente. Ieri non c'era quasi nessuno, c'erano solo dei ragazzi cinesi che facevano la spesa con le mascherine, mi ha molto colpito. E poi aggiungo che New York è una città multietnica, una città dove arrivano ogni giorno migliaia di turisti da tutto il mondo, la metropolitana di New York è un posto pieno di gente, sempre, sì. Esatto, stracolmo di gente, quindi chissà. Chissà, insomma. Comunque, per il momento tutti tranquilli, sentiremo che cosa dirà Trump. Oggi c'è stato un nuovo caso in Georgia di una persona che era tornata all'Iran. Finora i casi di cittadini americani confermati sono 54, tra quelli che erano sulla nave da crociera. Quella Princess, giapponese Diamond Princess, che era in Giappone, che adesso sono in quarantena in un campo militare in Texas, San Antonio. E le altre persone solo lunedì ne hanno aggiunte 18. Il punto è che qui i controlli non li stanno facendo, non li hanno fatti, non li fanno ancora quando si arriva negli Stati Uniti, e quindi al di là delle parole di Trump, che è appena tornato dall'India, è una cosa un po' surreale, perché è stato lì nei giorni in cui qualcuno gli ha fatto una verifica, appunto, qualche testa a Trump. Non credo, però è curioso che in questi tre giorni che lui è stato, due giorni che è stato lì, la borsa americana ha annullato tutti i guadagni dell'anno e rischia davvero, qualcuno ieri diceva che se ci dovesse essere una contrazione di 10-15 punti percentuali dei listini americani, diciamo, l'andamento della borsa sarebbe uno dei motivi che potrebbe minare la sua possibile rielezione a novembre, perché lui ha sempre vantato il record dell'economia americana. L'economia rallenterà in tutto il mondo, ma anche qui per gli effetti della chiusura delle fabbriche cinesi. Ieri è uscito questo dato che gli arrivi di container nel porto merci di Los Angeles, che è il principale hub per lo shipping negli Stati Uniti, da dove arrivano la gran parte delle navi cinesi, insomma, a febbraio finora il 25% in meno di container sono arrivati, sono stati annullati credo 80, ieri leggevo, contratti di navi che dovrebbero partire da qui fino ad aprile o arrivare, insomma, da questo porto di Los Angeles. Quindi, insomma, si registrano già dei danni nella logistica e i danni, insomma, la conta dei danni aumenterà, credo. Chiaramente. Poi vedo, fra l'altro, per chiudere, che 5 università americane sospendono i loro programmi in Italia per l'emergenza coronavirus, quasi tutte hanno attività a Firenze. Con questo ci lasciamo, Riccardo Barlan, poi ci aggiorneremo nei prossimi giorni anche sulla situazione americana, mi raccomando, tu Riccardo Prudente, ciao, viva senza l'Italia. Allarmismi, viva l'Italia, viva l'Italia, è vero. Arrivederci. Ciao Riccardo. Restando su questo tema, alla luce dei contagi di coronavirus tra minori, ci sono stati i primi casi, la nostra Nicoletta Carbone nell'appuntamento ogni mattina alle 10.45 ha chiesto delucidazioni al professor Elio Castagnola, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Io credo che quello che dobbiamo dire è che i dati scientifici ci dicono che i bambini sono infettati, ma si ammalano molto raramente, cioè gli viene la febbre, la tosse da coronavirus molto raramente, e che soprattutto le forme gravi, quelle che richiedono la terapia intensiva, sono, potrei dire, eccezionali. Quindi, da un punto di vista generale, noi possiamo pensare che la popolazione pediatrica sia in qualche modo protetta, o forse meglio, meno aggredita da questo virus. Quindi, professore, messaggi ai genitori: tranquillità. Assoluta, tranquillamente, è un'influenza, passatemi il termine un po' generico, un po' più diffusiva delle altre, perché non c'è nessuno al mondo finora che l'avesse mai presa, quindi da poter creare un po' di immunità. Bisogna non andare al pronto soccorso, ma contattare il 112 delle singole regioni, 112-118 secondo le situazioni, telefonare. Chi deve farlo? Soprattutto le persone che vivono nelle aree a rischio. Certo. Un soggetto pediatrico in un'area non a rischio, che non ha avuto contatti con casi, è al momento attuale delle conoscenze dell'epidemiologia estremamente improbabile. Bene, intanto c'è questo ascoltatore che dice: il coronavirus è una semplicissima influenza. Avete mai voi media elencato, parlato di quanti ogni anno prendono l'influenza stagionale? Mille volte. E del coronavirus abbiamo parlato in tutte le salse, con tutti i virologi possibili e immaginabili, ogni giorno continuano a esserci, e anche naturalmente con le autorità, con le istituzioni, quindi più di così. Poi c'è Henry che dice: Roby, ho sentito, è vero che voi dipendenti domani vi misurano la febbre, se oltre 37,5 non entrate, ma nel caso vi mandano a casa in ospedale. Tanto vedremo. Io poi, per quanto riguarda me, anche quando sto malissimissimissimo, diciamo che ho un 35,5-36, quindi a me è anche difficile rilevarla, ma comunque insomma dopo questa bronchite di quest'anno penso di aver dato. Ci sentiamo tra pochissimo, torno a Ratta come la Folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, non siate egoisti, ditelo anche ad amori, conoscenti, amici e parenti, perché chi vi dà qua, diciamo, il panorama italiano tutte le sere, un quadro aggiornato, chiarissimo, esauriente, con tanti approfondimenti di tutto quello che è più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, è Roberta Giordano qui con voi. E allora abbiamo parlato lungamente del quadro più generale, anche per quanto riguarda l'Italia, della situazione del coronavirus e degli sviluppi anche negli Stati Uniti. Avete sentito anche di questo vademecum con tutte le indicazioni per comportarsi, sia per quanto riguarda l'assenza dei figli a scuola oppure il rimborso di biglietti o pacchetti turistici se si deve annullare il viaggio proprio per colpa del coronavirus. Adesso concentriamoci sulla politica italiana. La questione della protezione dei nostri medici è fondamentale. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è organizzato nella gestione, nella fase esecutiva, su base regionale. È chiaro che dobbiamo lavorare insieme per conseguire questo obiettivo. Io penso che qualsiasi idea, diciamo, di divisione o di rimpallo di responsabilità non ha alcun senso. Si lavora insieme per conseguire questo obiettivo. Questo è quello che bisognerebbe fare. Anche Conte oggi, dopo aver ricucito lo strappo con le regioni, ha detto: non facciamo più polemiche, cerchiamo di lavorare tutti insieme. E però tornano di nuovo all'attacco, in particolare il leader della Lega Matteo Salvini, ma anche Matteo Renzi di Italia Viva. Saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani, cara Betta. Buonasera, buonasera. Qui dai Palazzi Romani, grande controllo sul coronavirus. Brava, so che anche tu sei lì attenta, vigile, e abbiamo piena fiducia in te, Betta. Ma evidentemente qualcuno non ha fiducia nel governo, perché Salvini è tornato all'attacco anche quando ha sentito che Conte comunque ha detto: io accolgo volentieri tutte le proposte in Consiglio dei Ministri, anche se vengono dall'opposizione. Sentiamo questo passaggio di Salvini. Ho letto che il Presidente del Consiglio, bontà sua, ha detto che se sono proposte intelligenti le porterà addirittura in Consiglio dei Ministri, quindi siamo onorati di avere con tanta attenzione. Quindi sembrava più o meno conciliante, anche se ironicamente, ma sentiamo quest'altro passaggio dove ripassa all'attacco. Qualcuno è in grado di difendere l'interesse, la salute e l'economia pubblica, qualcun altro di meno. Chiaro che se tu giri le televisioni in mezza Italia per 3 giorni lanciando l'allarme, chiunque guardi la televisione dalle 6 della mattina alle 2 di notte ritiene che ci sia l'allarme. Non so se Macron e la Merkel si sono comportati nella stessa maniera. A occhio penso di no. E aggiungo, se ci fosse stato un problema in un ospedale francese o tedesco, non penso che il Presidente del Consiglio francese o tedesco avrebbero additato i medici francesi o tedeschi come eventuali responsabili. Insomma, poi Renzi dice qui c'è stato un grosso errore di comunicazione, da questo ci possono essere danni enormi, ma insomma la comunicazione è sbagliata, chi l'ha fatta? Conte, il governo, oppure i governatori, così i presidenti di regione che subito hanno fatto vedere come anche loro d'altronde si davano da fare al massimo con misure stringenti. Insomma, cioè, se uno fa, diciamo, se, no, al di là del governo o del presidente di regione, se uno fa viene criticato perché fa troppo e quindi può creare dei danni in un senso, se non lo fa allora viene criticato perché il contagio eccetera eccetera. Betta, tu che hai controllo, come hai detto, lì da Roma sul coronavirus, hai capito? No, allora, che... intanto tu sei raffreddata e già questo mi sembra, no, un indizio. No, io sono raffreddata, sì, di un raffreddore autoctono, autoctono, probabilmente un topo, una pantegana che ho preso correndo sul Lungotevere, quindi è un raffreddore sovranista. Mica ti ha morso la pantegana, che c'è, se no ti prendevi la... No, ma stiamo scherzando. Allora, intanto, cominciamo a dire che sì, oggi a Montecitorio e a Palazzo Madama c'era un po'... anche lì una piccola follia, no? Tu dovevi entrare a Montecitorio, c'erano tutte quante le bottigliette di amuchina, però una tutte lì sono finite, ecco perché non si trovano. No, sconosciuta di marca. Posso postare la foto su Effetto Notte per dare senso che ci fossero. Sì. L'abbiamo fatta di traverso, perché praticamente non è possibile poi fotografare, quindi noi abbiamo fatto un po'. E praticamente c'era questa cosa di amuchina che c'era in tutte quante le entrate di Montecitorio, e a Palazzo Madama, addirittura c'era l'entrata con la amuchina, ma ti misuravano la febbre con un piccolo dispositivo che ti mettono sulla fronte. Sì, quello che usano. Siamo alla follia. Io ho fatto due esternuti perché ho preso un raffreddore. Oh, il panico si è generato come un'untrice. Sono dovuta andare via, Roberta, Una follia. Bene. Questo è quello che è nei palazzi romani. Sì. Parliamo di cose serie. Salvini attacca praticamente... Ti sta chiamando Salvini, tu lo nomini e ti chiama. No, no, è mia cugina che lei fa la manager, sì, lavora fino a tardi, io l'ho chiamata prima e adesso lei pretende di parlare con me. Io gli devo dire, sono in diretta. Dillo, cioè, lo sanno tutti che sei in diretta, tutto il mondo in questo momento ascolta Effetto Notte. Non lo so se lo sanno tutti, ma insomma lo dirò a mia cugina, sono in diretta. Allora, questa cosa che succede, parliamo di cose serie, parliamo del fatto che Salvini oggi ha detto una cosa: c'è stato troppo allarmismo da parte del governo, e noi sempre, il leader della Lega, in realtà c'è, sembra rumors, io sì, parlo sempre di chiacchiere, di gossip, che non voglio essere credute come verità colata, però sì, sai, insomma, nei palazzi nei romani, rumors, nei corridoi, mucchina, sì, che succede? Si parlava di un Quirinale un pochino irritato, così sembra, con che il Mattarella, presidente del Consiglio, certo, Giuseppe Conte, che diciamo ha un po' troppo amplificato questa emergenza. Però anche alla fine, ecco, anche i presidenti di regione, no? E quindi Salvini chiaramente ha avuto a me sembra che un po' tutti abbiano un pochino probabilmente esagerato. Comunque vedo poco fa dichiarazione di Salvini, ho chiesto un incontro a Mattarella, quindi anche lui infatti adesso l'Ansa oggi diceva quello che io poi, tra le altre cose, intuitivamente su Facebook, nel mio profilo personale, ho scritto tre giorni fa. Dicelo, che dobbiamo lasciarci in 10.000 tamponi in Italia, 1.000 in Germania e in Francia. Cioè, io dico che noi siamo più lealisti del re, è vero, e siamo pronti a crocefiggerci, no? Adesso tutto, il coronavirus oramai, questa settimana non è più nato in Cina, è nato a Lodi. Comunque c'è stata la svolta e il governo ha detto tamponi solo a persone con chiari sintomi, quindi a te nessun tampone, perché mi sembra solo un po' raffreddore. Hai due secondi, Betta, ai radioascoltatori voglio dire che attenzione, siccome il coronavirus è nazionale, è venuto alla Cina, sì, è diventato italiano, sì, ma non passa la frontiera, è tipo il Piave, capito? Sì, è chiaro. Cioè non riesce a passare le Alpi. E c'è la canzone famosa. Secondo voi, Betta, ti chiama tua cugina. In Francia non ci sono contagiati. A dopo, Betta. Ciao Betta, grazie, dai, buona serata. Viabilità. Una follia italiana. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Oh, e a questo punto, sempre Roberto Giordano con voi, allontaniamoci un po' per qualche minuto dal tema del coronavirus per tornare invece su un caso di cronaca nera che aveva colpito molto l'opinione pubblica e sul quale restano però molti aspetti ancora avvolti nel mistero, molti aspetti oscuri. Sto parlando dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercello Rega, avvenuto, vi ricordate, lo scorso 25 luglio a Roma. Oggi è iniziato il processo che vede imputati due studenti americani, Finnegan Lee Elder e Natale Hjorth, attualmente detenuti nel carcere di Regina Celi. Nei loro confronti la procura contesta, oltre all'omicidio, anche reati di lesioni, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. E su questo coinvolgo la punta di diamante del Corriere della Sera, che è Fiorenza Sarzanini. Ciao Fiorenza. Grazie, sì, buonasera. Fiorenza, allora, qualcosa di nuovo da questa prima udienza è venuto fuori o nel corso comunque di questi mesi in cui non ne abbiamo più parlato rispetto a tanti aspetti oscuri, cioè i carabinieri che erano lì senza l'arma d'ordinanza e poi il ruolo anche di quello che doveva essere l'informatore, un pusher, ma anche informatore dei carabinieri, Brugnatelli. Diciamo che oggi la cosa fondamentale dell'udienza è stato che la Corte d'Assise ha deciso di ritradurre tutte le conversazioni che sono registrate in carcere per quanto riguarda Elder, quindi il ragazzo che ha accoltellato il vice brigadiere Mario Cercello Rega, perché gli avvocati della difesa si erano resi conto che la traduzione era stata in qualche modo modificata rispetto a quelle che erano le frasi originali, soprattutto sul punto fondamentale, cioè secondo l'accusa loro sapevano di avere, diciamo, a che fare con dei carabinieri. Secondo la difesa invece i ragazzi hanno reagito perché pensavano di essere di fronte a degli spacciatori o comunque a dei criminali. Nelle frasi che erano state tradotte nell'appunto perizia che era stata disposta dall'accusa sembrava che i due ragazzi dicessero sapevamo che erano carabinieri. Quando le difese hanno ascoltato i nastri e hanno fatto ritradurre, in realtà i ragazzi dicevano noi non sapevamo che quelli erano dei carabinieri, perché in effetti sia Cercello Rega sia Varriale, il suo appunto l'altro carabiniere, sì, erano in collega, borghese tra l'altro, no? Erano vestiti con i bermuda e una maglietta, non avevano la pistola di ordinanza, non hanno mostrato i tesserini, e quindi diciamo che questo è il nodo. E oggi alla prima udienza la Corte d'Assise, dopo aver accettato la Costituzione di parte civile, ha disposto una nuova traduzione di tutte le conversazioni. Quindi con questo ci potrebbe essere naturalmente qualcosa, diciamo, forse un attenuante, perché comunque il povero vice brigadiere, insomma, ha ricevuto molte coltellate, no? Quindi al di là della reazione. Ma su questo non c'è dubbio, ecco, sul fatto che un ci sia una responsabilità di questi ragazzi è fuori di dubbio, però è naturale che il processo debba accertare come ci si è arrivati e soprattutto quale sia stato il ruolo dei carabinieri rispetto a quelli che erano i pusher della zona di Trastevere che avevano agganciato questi due americani e avevano venduto loro tachipirina al posto della cocaina. Ricordo che sono state ammesse come parti civili sia il Ministero dell'Interno che della Difesa, no? Oltre anche alla vedova naturalmente di Cercello Rega, Fiorenza Sarzanini. Io ti ringrazio. Sì, certo. Sì, prego. Sì, certo, questo diciamo è doveroso perché giustamente sia il Ministero della Difesa sia il Ministero dell'Interno si costituiscono per far valere comunque le ragioni dell'arma. Grazie Fiorenza Sarzanini, ti grazie lascio al tuo voi lavoro. Grazie Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Ora invece il nostro Dario Ricci ci aggiorna sempre sulla partita in corso di Champions League maschile della Juventus che sta giocando a Lione. Come procede Dario questa partita? Siamo nell'intervallo e si è messa decisamente male per la Juventus, che è sotto di un gol, decide finora la rete di Tusara al 31esimo, splendida l'incursione sulla sinistra dell'altro talento dell'Olympique Lyonnais, Ouar, che ha crossato al centro. Tusara ha approfittato anche, oltre alla sua bravura, ha approfittato anche dell'assenza momentanea di De Ligt, che era a bordo campo per un infortunio, aveva subito un colpo alla testa in un'incursione offensiva pochi istanti prima. Quindi Juventus, che ha subito la rete quando era momentaneamente in 10, ma che prima e dopo non ha fatto molto per legittimare un risultato diverso. È vero che al quarto minuto c'è stato un bel cross di Ronaldo su cui Cuadrado non è arrivato, poi però tanto Lione a partire dal 21esimo con la traversa colpita di testa da Toko Ekambi, e poi ancora al 41esimo lo stesso Toko Ekambi con un destro alto sulla stessa traversa della porta difesa da Szczęsny, ha sfiorato il 2-0. Quindi alla fine dei primi 45 minuti Roberta, Lione 1, Juventus 0, e 0-0 invece al Bernabeu nell'altra sfida di serata di quest'andata degli ottavi di finale di Champions tra Real Madrid e Manchester City. Dario, invece, per quanto riguarda le prossime Olimpiadi in Giappone, oggi è intervenuto il presidente della Federazione Mondiale dei Medici Sportivi, Fabio Pigozzi, che ha detto: oggi i giochi non sono a rischio, gli atleti sono preoccupati, ma nessuno vuole rinunciare, no? Quindi per ora conferma che... Beh, certo, diciamo concetti abbastanza scontati, rispetto ai quali lo scatto viene chiaramente dall'autorevolezza di chi li ha sottolineati. Mattinata era stato nella mattinata europea, erano rimbalzate proprio da Tokyo, dal Giappone, le parole del primo ministro giapponese Abe, che ha chiesto a tutte le realtà sportive nipponiche di procrastinare di 2 settimane gli eventi pubblici, le manifestazioni a più alto tasso partecipativo, proprio per stringere ancora una volta la morsa intorno alla potenziale diffusione del coronavirus. È inevitabile che ci sia apprensione, mancano 150 giorni ai giochi di Tokyo, ma... Quando dovrebbero cominciare esattamente? 24 luglio, ma è chiaro che i prossimi 3 mesi saranno quelli decisivi e eventualmente l'ipotesi che è in campo è l'annullamento dei giochi, perché la logistica, e vado a chiudere, la logistica e l'organizzazione complessiva di un evento che solo come atleti coinvolge circa 11.000 protagonisti, puoi immaginare, è molto difficile da reimpostare, certo, in tempi estremamente brevi. Chiaro. Grazie Dario Ricci, staremo a Grazie vedere. A intanto qui ci dobbiamo lasciare, ma torno poi a aggiornarvi brevemente alle 22.